Bene, siamo in diretta con Citto Maselli, pronto? Sì, pronto, pronto, pronto. Oh, buon pomeriggio caro, come va? Non c'è male, non c'è male, siamo in piene riunioni, contro riunioni, assemblee, perché adesso andiamo a vedere il film di Montaldo su Cuba. Su Cuba, l'oro, sì. L'oro di Cuba. Sì, io spero tra l'altro di averlo ospite la settimana prossima per parlare di questo documentario. Sì. Allora Citto, parliamo invece del tuo film che hai presentato a Venezia, Le ombre rosse. Allora, sì. Partiamo dall'idea che ti ha spinto. È una metafora autocritica sulla sinistra, su noi. Però come mi disse Ken Loach, che ne abbiamo discusso un anno e mezzo fa, prima che io cominciassi a girare, lui mi disse una cosa che mi aveva molto colpito, gli avevo raccontato com'era la storia. Sì. Quindi se deve fare una storia che però fatto in modo che serva alla sinistra italiana, ma anche alla sinistra canadese e australiana. Io rimasi allibito, non ci avevo mai pensato. Come canadese? Ma sì, deve essere universale il discorso, infatti in questo senso il tentativo mio è di fare un film che riguarda tutti noi, tutta la sinistra italiana, dai centri sociali alle realtà più istituzionali. Il film si svolge durante il governo Prodi e quindi ci sono di mezzo anche tutta la partecipazione della sinistra alle istituzioni, vista con un atteggiamento ovviamente molto serio, molto severamente critico, ecco, per quello che riguarda il mio punto di vista personale. Per chi ci ascolta e non ha avuto ancora modo di vedere il tuo film, come lo racconteresti in breve? È una storia che riguarda centri sociali, intellettuali di sinistra e dei teatranti, dei produttori di cultura, come si dice, creativi, che cercano disperatamente degli spazi. Sono quindi tre filoni che si incrociano per dare un quadro generale di tragedia. In relazione proprio a quello che ti diceva Ken Loach, come sei riuscito a dare un respiro internazionale a questa analisi critica della sinistra? Scusami, io non lo so se ci sono riuscito. Perché il... no, perché allora, quantomeno come ci hai provato, diciamo, su che punti? Artistico, non facendo nessun riferimento diretto a nessuno di noi, non ho fatto il bagaglino facendo il raccontino di quello, di quell'altro, che la tentazione c'era in alcuni casi, ma non l'ho fatto, ho fatto un discorso dove anche molte realtà concrete, tentativo di renderle più universali, più generali, dalla sinistra dentro le istituzioni agli intellettuali di sinistra che si ritengono superiori a tutto, eccetera. E c'è anche molto di riferimento a un mio vecchio film di 40 anni fa che si chiamava Lettera aperta, un giornale della sera, ed era un film allora in cui io criticavo quello che allora era il mio partito, che era il Partito Comunista, e io facevo un film molto critico nei riguardi del Partito Comunista. Oggi sono di rifondazione comunista, ma io oggi ho fatto invece un discorso che riguarda l'intera sinistra, compresa rifondazione ovviamente, compreso tutta la sinistra più radicale fino alla sinistra media e più cauta oppure più istituzionale. Quindi il tentativo è di rendere questa realtà più simbolica. Questo come tentativo, poi andandola a vedere forse si capisce meglio. Citto, penso che tu abbia fatto una ricerca per metterti Non ho fatto nessuna ricerca, che mi è bastato raccontare quello che ho vissuto. Ok. Allora, io sono in contatto con tantissimi, anzi addirittura il punto di partenza di un intellettuale di sinistra conosciuto, una persona che viene invitato da un centro sociale a fare una conferenza, e da lì parte tutta la storia del mio film. In realtà io racconto, è una storia vera che mi è successa, e questa è una cosa appunto divertente. Che quadro ti sei trovato davanti in questo periodo, secondo te, la cosiddetta sinistra che hai analizzato, in che situazione si trova? Ma non la puoi chiamare cosiddetta sinistra, ma tanto in realtà della sinistra. Beh, io sono del parere che siamo in una situazione drammaticissima, di grandissimo pericolo, c'è questa frammentazione estrema, non a caso che sono voluto restare nell'unico partito che rimane come partito, molto piccolo, ma avendo subito delle irresponsabili scissioni prive di senso secondo me, ma è rimasto invece un nucleo. Oggigiorno va molto di moda parlare male del Novecento e parlare male dei partiti, sono due di immense sciocchezze che sono le mode dei salotti, dei guru del momento della nostra sinistra, che si inventano questi nuovi slogan di Riccardo Lombardi diventa più importante di Antonio Gramsci, cioè c'è tutta una serie di eleganti boutade, sì, paradossi salottieri, che di fatto però rischiano di diventare poi più pericolosi di quello che potrebbero essere, perché davvero si creano confusioni infinite, confusioni pessime e una frammentazione che di fatto finisce per favorire sostanzialmente i salotti, cioè quelli che chiamavamo un tempo i partiti d'opinione, che non sono partiti, sono logiche di lobby suggestive tenute da vari tipi di guru del momento, ma sono delle cose che sono il contrario esatto di quella che è un'organizzazione politica. Io non credo al partito leninista, non ci ho mai creduto, Avanguardia Cosciente Organizzata del Proletariato. Io sono nel Partito Comunista dal 1944, dal periodo dei tedeschi, quindi voglio occupazione tedesca, voglio l'ho conosciuto tutte le varie trafile. Il partito italiano, grazie a Dio, è stato sempre diverso dagli altri partiti, anche perché c'era stato Gramsci di mezzo, per cui poi rispetto al partito francese è stato tutta un'altra cosa. Tutte le grandi espulsioni dal Partito Comunista Francese degli anni 50 sono chiamate per deviation italienne, per dire quanto quel partito era lontano dal partito nostro. Detto questo, poi anche il partito nostro aveva grandi problemi al suo interno, che dal 56 in poi sono sempre stato quello che si diceva allora come ingraiano, cioè una sinistra interna. Vabbè, okay. Queste sono cose che non mi interessano. Citto, è uscito venerdì scorso, che mi dici sui primi risultati, su questa prima settimana? Non ho seguito, io devo dire la verità, su quello che riguarda poi gli incassi di un film, sono sempre molto scettico, nel senso che a volte poi ci sono dei film bellissimi che incassano poco perché dipende dal momento in cui sono usciti, così come ci sono dei film mediocri che invece proprio perché sono usciti in un altro momento, perché hanno delle tematiche che vanno di moda, come tutti i film dei telefonini bianchi, come li chiamo io, i film dei giovani di Pontemiglio o comunque di un certo tipo di gioventù spensierata di oggi, che è appunto il cinema dei telefonini bianchi, ecco, certamente c'è un impatto migliore. Detto questo, a giudicare dal viso, sono ancora a Venezia perché io sto lavorando molto su questo movimento Novem, che abbiamo creato, Movimento Emergenza Cultura Lavoro e Spettacolo, cioè sono 39 associazioni sindacali in accordo con il Global della Bici, che sono qui a Venezia, i precari che organizzano i precari eccetera, e abbiamo lavorato per creare davvero un movimento complessivo che obblighi questo governo a cambiare la sua politica per la cultura, che è una politica terrificante. Io sono qui ancora rimasto a Venezia, non ho seguito gli incassi del mio film, ma giudicare dal sorriso della mia produttrice esecutiva Donatella Palermo, direi che devono essere abbastanza bene, buoni. Bene. Allora Citto, un abbraccio, in bocca al lupo per le prossime cose e a presto. A presto, arrivederci. Ciao.